Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. E siamo ad un nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora oggi andiamo a vedere un po' la qualità della vita di noi italiani, perché sembrerebbe che il nostro paese viaggi a due velocità. Sì, siamo voluto analizzare un po' lo stato di salute del paese, anche per evidenziare se ci sono, chiaramente tu l'hai già anticipato nella domanda, delle diseguaglianze territoriali, e in base a questo si è fatto una valutazione di quelli che sono dei parametri da considerare, non solo rispetto a dei coefficienti determinati sulla appunto base della qualità, ma anche allo stato delle abitazioni possedute. Io vado un po' intuito, secondo me il paese è diviso in due tra nord e sud, sbaglio? Purtroppo continuo ad anticipare le risposte, perché effettivamente è uscito proprio un paese diviso in due ed anche un paese a due velocità, però è anche uscito che, a prescindere che parliamo di nord o di sud, comunque la qualità della vita degli italiani è fortemente diminuita negli ultimi anni di circa 21 punti, addirittura si è passati da 121 punti che erano dei 2009 a 100 punti insomma nel 2015, quindi certamente una differenza che ha rivisto un po' quelle che erano i standard di qualità che si è abituati a analizzare ogni volta. Ho capito, quindi la qualità della vita di tutto lo stivale è peggiorata in questi anni e continuano a esserci differenze forti tra il nord e il sud. Ma per esempio se guardiamo il nord, come siamo messi? Beh, allora innanzitutto il nord-est si colloca, abbiamo detto, al primo posto con 111 punti, poi abbiamo il nord-ovest con 107, poi si passa al centro con 103, e sud delle isole andiamo sotto i 100 punti, ci collochiamo addirittura a 87. Se andiamo ad analizzare i redditi equivalenti a quello corrispondente al 40% delle famiglie con i redditi più bassi, corrispondono il 29% delle famiglie del nord-ovest, il 30% del nord-est, e poi abbiamo il dato al sud che supera, insomma, si attesta intorno al 65%. Quindi un dato drammatico che mette in chiaro che oltre a uno standard di qualità diverso c'è anche una forbice economica completamente diversa, ma che comunque in generale, che parliamo di nord o parliamo di sud, comunque siamo tornati indietro di circa 9 anni. Ecco, quando tu parli di reddito equivalente, che cosa intendi? Il reddito equivalente è il reddito pro capite che ciascuno, ogni persona ha sulla base di quello che è una media che ciascuno di noi riesce ad avere diviso per il numero dei lavoratori, cioè il lordo che uno ha su un anno sulla base di quante persone lavorano, quindi è il reddito che sostanzialmente dispone, che okay. Certamente anche qui si differenzia, come abbiamo detto, di moltissimi punti tra il nord e il sud. Io so di per certo che però ci sono prezzi diversi, cioè abbiamo quest'Italia che viaggia decisamente con redditi diversi, come abbiamo appena detto, ma anche i prezzi al consumo sono diversi tra il nord e il sud. Per esempio il caffè, credo in Puglia, costa sui 50 centesimi, la metà rispetto al prezzo a cui siamo abituati qui. Infatti questa è una cosa che aggiungiamo noi, proprio perché a volte è vero che al sud hanno un reddito inferiore, però hanno anche un costo della vita nettamente inferiore. Però su quello che è uno studio, ricordiamo che i punti analizzati sono stati 87, quindi si parla di abitazione, di beni posseduti dalle famiglie, caratteristiche del territorio, la condizione di salute degli individui. Poi abbiamo le relazioni amicali e partecipazioni sociali, servizi socioassistenziali, abbiamo il sistema sanitario, la struttura, la cultura, l'economia, l'equità economica, insomma capisci che si sono voluti analizzare 87 parametri, quindi certamente un quadro che, come hai detto tu per intuito, ha dato dei risultati che non certamente siano stati lontani dalle aspettative. Ecco, vabbè, e quindi questa è un po' la nostra condizione. Chissà se cambierà. Io insomma ho una certa età e quindi ne ho sempre sentito parlare. Le differenze tra il nord e il sud esistono, vorrei dire, da 50 anni, dal mio ricordo personale, quindi non so se le cose cambieranno nei prossimi anni. Certamente anche noi siamo scettici a pensare che nei prossimi anni cambieranno, però è anche vero, Francesco, che dobbiamo ammettere come, al di là della diversità tra nord e sud, però tutti hanno visto una condizione generalizzata peggiorata rispetto a 9 anni fa in maniera molto molto sensibile. Ricordiamo che la media risulta, siamo andati indietro di 21 punti rispetto, insomma, a come stavamo. Esatto, da 121 siamo passati a una media di 100, al di là poi di quelle che sono le variazioni tendenziali. Ho capito, vabbè, speriamo che le cose cambino, intanto ne abbiamo parlato, è bene insomma avere coscienza di quella che è la condizione del nostro paese, del nostro stivale, a seconda di dove ci si sposta. Devo dire che da quello che si evince dai dati, lo ripetiamo, il nord-est, cioè dove stiamo noi, è quello in cui si sta meglio. Sì, è quello dove si sta ancora meglio, è quello dove la sanità sostanzialmente funziona meglio, è quello dove i servizi socioassistenziali ancora c'è qualcosa, certamente c'è da riflettere comunque come questi 21 punti hanno sostanzialmente fatto arretrare comunque le condizioni di tutti, quindi speriamo di sbagliarci, ma certamente azzardare previsioni più rose in questo momento risulta alquanto difficili per tutti. E ci lasciamo allora con questo sguardo generale che abbiamo fatto. Ricordo che l'appuntamento con l'Adico è per lunedì prossimo e c'è sempre il sito da andare a vedere, che è associazionedifesaconsumatori.it. Saluto quindi il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini, a lunedì prossimo. Grazie a te, Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.